Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di una iniziativa editoriale del gruppo del Sole 24 Ore e di un libro che ci parla degli inizi della società industriale. Ma entrambe queste realtà, questa iniziativa editoriale e questo libro parlano in fondo delle nostre origini, da una parte la cultura economica, dall'altra la cultura e la realtà industriale. La collana del Sole 24 Ore che in questi giorni ha iniziato ad essere in edicola è quella dedicata all'economia classica, ai classici dell'economia. Il libro di Stefano Righi dedicato alle città illuminate, un libro che parla appunto degli inizi dell'industrializzazione e di come l'energia elettrica sia arrivata a Milano e da Milano poi sia cresciuta in tutto il paese, in tutta la realtà ed abbia sostenuto appunto la crescita, la rivoluzione industriale in Italia. Iniziamo parlando di questo libro di Stefano Righi. Buonasera Stefano Righi. Buonasera Gianfranco, buonasera a tutti voi. Stefano Righi è giornalista, saggista, lavora per il Corriere della Sera, è stato già nostro ospite per il suo libro un paio d'anni fa, Reazione Chimica, sull'industria chimica italiana. Questo libro invece è dedicato a un elemento altrettanto importante nella storia industriale, ma direi anche nella storia civile italiana, che è l'energia elettrica. Come è arrivata l'energia elettrica in Italia, come è avvenuto il primo impatto con questa nuova realtà e come da più di 100 anni ormai l'energia elettrica ha accompagnato la crescita e lo sviluppo italiano. Allora, perché parlare di Thomas Alva Edison, l'inventore della lampadina? Che cosa ha a che fare Thomas Alva Edison con l'Italia? Stefano Righi. Edison diede a Giuseppe Colombo, che fu poi il fondatore della Edison italiana, l'idea che ci potesse passare dall'illuminazione ottenuta bruciando carbone a un'illuminazione diversa, e Colombo andò addirittura più volte a trovare Edison negli Stati Uniti, vicino a New York, importò tutta la strumentazione messa a punto da questo straordinario genio americano, costruì la prima centrale a carbone in Italia, a fianco del Duomo di Milano, dove oggi ci sono i magazzini della Rinascente. E da lì partì l'idea di illuminare la città. La città illuminata è Milano, da lì poi in tutta Italia si diramò questa straordinaria opera di ingegneria civile. Rapidamente si passò dal bruciare carbone all'utilizzare l'energia dell'acqua, dei fiumi, di cui la Lombardia certo è ricca, e fu un programma straordinario di sviluppo. Il mio è un libro sia sulla fondazione della Edison, che da poco ha fatto 130 anni, ma è soprattutto, vorrebbe essere, il libro su un'Italia che non c'è più, su un'Italia che non aveva paura di immaginare il futuro, di creare cose che non c'erano. Ecco, un libro che è un po' ricostruzione, anche qualche elemento un po' romanzato, anche molte curiosità, per esempio il fatto che lo stesso Thomas Alva Edison fosse nato a Maryland, una cittadina dell'Ohio, una piccolissima cittadina che casualmente aveva lo stesso nome di Milano, quasi come premonizione del fatto che questo appunto, questo grande interprete dell'innovazione poi avesse un ruolo fondamentale anche nella nascita in fondo economica e sociale di Milano. E quindi si racconta questa avventura milanese, ecco, un'avventura milanese che è nata anche tra molti contrasti a quel tempo. Assolutamente, perché certamente gli industriali legati al gas erano del tutto avversi a questa innovazione che difatti rapidamente li ha esclusi dal mercato. È una storia milanese, ma è una storia italiana, perché ci sono degli episodi legati ad esempio alla città di Udine che a me stesso erano del tutto sconosciuti, ma in verità Udine con Milano è stato uno dei centri dello sviluppo dell'energia elettrica in Italia, per cui una sapienza diffusa della quale oggi forse rischiamo di perdere le tracce, travolte un po' da tutte le cose che stanno accadendo. Ecco, io dicevo prima che anche c'è una parte romanzata, in questo libro si intreccia la storia appunto della creazione della prima centrale elettrica, dell'illuminazione del Teatro della Scala, con quello che era un furto in una banca, la costruzione da parte di un barista, di un conicolo che approfittava appunto del rumore che faceva questa nuova centrale per passare inosservato il fatto che lui stesse svaligiando un forziere. Sì, c'è una parte di ricostruzione storica anche severa dovuta al lavoro di Andrea Colombo che ha scritto con me il libro. E poi c'è una parte romanzata in cui abbiamo intrecciato la storia di questo Carlo che appunto faceva il barista vicino al Duomo e che ci ha aiutato a raccontare in maniera più semplice la vita di quell'epoca. E quindi... Ecco, ma c'è qualcosa di vero in questa storia del barista svaligiatore? Ma io no, questo è pura frutto di invenzione. Di vero c'è tutto il contesto e le persone che Carlo frequentava, questo sì. Ecco, e quindi c'è una descrizione della Milano di fine Ottocento, una Milano in cui peraltro si viveva bene, in cui c'era una grande attrattiva, si andava molto a teatro, non c'era ancora la televisione, non c'era ancora il Festival di Sanremo, non c'erano tante cose che distraggono un po' l'attenzione. Ecco, però c'era il fatto che ogni tanto i teatri prendevano fuoco perché erano tutti di legno ed erano illuminati a gas. Ecco, quello fu davvero il momento di svolta e accadde poco prima che venisse presa la decisione di fondare la società italiana Sistema Edison il 6 gennaio di 130 anni fa, che due grandi teatri, uno a Vienna e uno a Nizza, interamente costruiti in legno, bruciarono. Come dicevi tu, l'illuminazione era prettamente a gas. C'erano, ad esempio, al Teatro della Scala c'erano più di 2000 fiammelle a gas, pensate il rischio che si correva. A Vienna e a Nizza purtroppo le cose andarono molto male e questo fu una spinta verso l'innovazione, perché l'elettricità annullava il pericolo della fiamma, che certo, soprattutto con strutture in legno era devastante. Ecco, Stefano Righi, tu dedichi molte pagine a un racconto approfondito appunto alla nascita e ai primi sviluppi dell'energia elettrica in Italia, poi diciamo sorvoli un po', concludi un po' questo viaggio. Gli ultimi anni sono stati anni segnati dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica, dalle vicende della Montecatini Edison e così via, a cui dedichi forse giustamente, in un equilibrio di questo libro che vuole essere soprattutto un libro storico, dedichi alcune pagine, però appunto io ne approfitterei anche da giornalista per farti dare un giudizio al di là della realtà. L'Italia dell'Ottocento aveva una grande volontà di crescita, di scoprire cose nuove, non aveva i no elettricità, come adesso ci sono i no TAV probabilmente, quindi forse adesso bisognerebbe riscoprire un po' di quella volontà, di quella voglia di costruire che c'era qualche secolo fa. Sai, i no TAV dell'epoca c'erano, l'abbiamo detto prima, perché quelli, gli industriali del gas, una sorta di lobby contraria, riuscirono ad attivarla. Ma lo spirito, ecco, lo spirito di affrancamento dal bisogno, di creare un'Italia nuova, diversa, questa spinta verso la modernità, oggi secondo me la stiamo un po' perdendo. E questo è purtroppo un rischio per tutti noi, ecco. È un problema soprattutto di persone, di riconquistare un po' una fiducia in quello che di un progresso che non si ferma e che può sempre creare qualcosa di nuovo. Io ne sono convinto e spero che il libro trasmetta questa voglia di fare, di guardare oltre alla realtà e di immaginare un futuro diverso che deve essere migliore per tutti noi. Grazie, grazie a Stefano Righi, il primo libro di cui abbiamo parlato stasera è appunto La città illuminata, scritto da Stefano Righi, giornalista del Corriere della Sera, edito da Rizzoli, 320 pagine, 20 euro. E dopo aver parlato degli inizi dell'industrializzazione, dell'avvio appunto dell'esperienza dell'energia elettrica, parliamo della teoria economica dei grandi economisti. E lo facciamo presentando una collana che da questa settimana è in edicola, ogni settimana con un volume dedicato appunto agli economisti del passato, Economia classica per i tempi moderni, si intitola questa collana, che raccoglie 15 opere tra le più significative del pensiero economico. Non si tratta delle opere integrali, opere che in realtà in molte parti sono anche abbastanza noiose, ma si tratta di stralci, di sintesi di queste opere curate da Fabrizio Galimberti, che ci aiutano a comprendere come è nato il pensiero economico, come si è sviluppato e quali sono state le maggiori tendenze delle varie discipline economiche. Si parte ovviamente con Adam Smith, con La ricchezza delle nazioni, e si arriva con il 15° volume alla teoria generale di John Maynard Keynes. Attraverso questi volumi, che lo ricordo saranno in edicola tutte le settimane, ogni settimana ci sarà un volume diverso che dal mercoledì in poi potrà essere acquistato in edicola a 5,90 euro. Ecco, questi volumi compendiano un po' la storia dell'economia, la storia di come si sono affermati i sistemi economici e anche le dinamiche storiche che hanno portato al pensiero economico contemporaneo. Si tratta quindi di affrontare quella che non è una scienza di solito una scienza esatta. L'economia viene spesso definita come un'arte, come una capacità di interpretare la realtà e quindi di entrare attraverso appunto una sintesi di questo pensiero a un riconoscimento, a un'interpretazione dei fatti economici. Lo ricordo, queste opere partono da Adamo Smith, attraversano Ricardo, Tocqueville, Cournot, ovviamente non poteva mancare Il Capitale di Marx e I Principi di Economia Politica di Menger, per poi arrivare a Pareto con Il Trattato di Sociologia Generale e, come dicevo, alla Teoria Generale sugli Interessi e la Moneta di John Maynard Keynes. È un'opera che sarà possibile acquistare anche in ebook, quindi L'Economia Classica per Tempi Moderni, una iniziativa del Sole 24 Ore da questa settimana, tutte le settimane in edicola per 15 numeri. Con questo concludiamo la nostra rubrica ringraziando Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.